che son disperato, da che vidi Sandrina non ho pace, non so più che mi fare, la voglio ritrovare, dappertutto l'ho cercata finora. Adorata signora, piano piano, ditemi, son curiosa di sapere chi sia colei che ricercando andate. Dirò che